arrivata quasi per caso, eri seduta poco lontano. Subito ho capito che tu eri fatta per me. Intanto il tempo passava, non avevo mai una scusa per venirti a dire che tu eri fatta per me. Quasi per caso eri venuto poco lontano, subito ho capito che tu eri fatta per me. Intanto il tempo passava, non avevo mai una scusa per venirti a dire che tu eri fatta per me. Ma poi, quando ti ho vista col tuo ragazzo, e poi chi se lo sarebbe immaginato che poi, quando ti ho vista col tuo ragazzo, e poi chi se lo sarebbe immaginato che questo di merda ho incontrato la donna fatta per me, fatta per me. Era sì vicina ma molto lontana, e fatta per me, fatta per me. Cavo tra la gente per rubare un tuo sorriso, nella speranza che tu eri fatta per me. Intanto il tempo passava, non avevo mai una scusa per venirti a dire che tu eri fatta per me. Ma poi il tuo cuore era già occupato, e poi tristemente mi sono rassegnato. Ma poi il tuo cuore era già occupato, e poi tristemente mi sono rassegnato. Ma in quel buco di merda ho incontrato la donna fatta per me, fatta per me. Era sì vicina ma molto lontana, e fatta per me, fatta per me. Grazie a tutti. Questa canzone, visto che c'è stato un bordello, la volevo dedicare col cuore. La volevo dedicare a tutti i gruppi che hanno suonato questa sera. Non so il nome di nessuno. Due o tre, un paio prima da Milano, un paio da un'altra parte e un paio ancora, comunque. Vai Carlino. Thank you.